Bene, allora io darei il benvenuto a tutti voi, vi ringrazio di essere con noi questa sera. Iniziamo con oggi la stagione del Trevi Lab e della Biblioteca Provinciale con le nostre iniziative, gli incontri con autrici e con autori, i nostri dibattiti, i nostri incontri, ecco, che caratterizzano un po' l'attività della biblioteca e che sono volti anche a favorire la lettura e il percorso individuale di crescita. E in questo senso questa sera ringrazio tantissimo l'autrice del libro che presenteremo, Alessandra Limetti, che è qui con noi, la ringrazio. Ringrazio Alberto Faustini che farà da moderatore e ringrazio il professor Paolo Bellettati che invece come psicologo e psicoterapeuta interverrà tecnicamente anche nella narrazione e nella discussione di questo argomento delicatissimo che riguarda appunto le dipendenze e questa narrazione molto sentita, molto coinvolgente che Alessandra Limetti fa di episodi e di vite coinvolte, ahimè, insomma, in una situazione molto difficile da sostenere da soli. Non aggiungo altro, ma volevo ringraziare perché è un'esperienza e questa anche una condivisione di informazioni e di diciamo una lettura anche di speranza e di coraggio che si può dare, si può regalare alle persone in queste situazioni, perché purtroppo non siamo immuni, nessuno è immune dall'incontrare delle difficoltà nel proprio percorso di vita. Un'altra cosa che ci tengo anche a sottolineare è che la biblioteca ha un ruolo anche di formazione, ha un compito di fornire delle chiavi e di mettere in relazione le persone che possono dare delle informazioni, possono dare degli spunti, come in questo caso questa sera il libro di Alessandra Limetti e anche coloro che parteciperanno alla discussione qui in questa sede. Abbiamo altri appuntamenti che vi segnalo molto velocemente, dal gruppo di lettura domani, un nuovo approccio che abbiamo sperimentato di leggere e di confrontarci, è alle 17 qui in biblioteca e riguarda appunto una storia di un ragazzo ebreo e il nostro gruppo di lettura si intitola Localmente, abbiamo una locandina, delle cartoline se avete piacere. E visto che siamo nel mese che commemora la Shoah, l'11 di gennaio, giovedì, sempre alle 17.30 in questa sala, presenteremo il libro della Ponzani, Processo alla Resistenza, l'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022. Come avete visto fuori nel foyer c'è un quadro dell'architetto Luchin, la prossima settimana parleremo di neuroscienze, sarà con noi qui a discutere sulla quadratura di Heidegger, partiremo nello spunto di questo quadro e ci sarà un bel argomento, insomma, che riguarderà le relazioni e il nostro modo di crescere che si ricollega anche in parte a quello che iniziamo questa sera come percorso. Vi ringrazio, vi invito a seguire le nostre attività, le diffondiamo con una newsletter, se vi iscrivete alla biblioteca riceverete tutte le informazioni puntualmente. Lascio subito la parola all'ospite di riguardo che abbiamo qui con noi, Alessandra Limetti, la nostra autrice. Grazie. Grazie, buonasera. Io do la parola subito al dottor Faustini. No, mi divertiva perché io farò poco e sarò inutile, però se non mi danno neanche la parola non serve proprio che io venga, mettiamola così. Allora, è un gioco, usiamo la parola subito, il gioco di cui si parla, il gioco che diventa pericoloso, questa parola impropria mi viene da dire, perché il gioco è altro rispetto a quello di cui parliamo, cioè rispetto all'azzardo. A volte diventa un gioco l'amore, diventa un gioco il denaro, diventa il gioco quello che si mette in ballo dentro una vita. Io, come sempre, lo dichiaro in premessa, ma quando mi vedete ormai lo sapete, c'è un conflitto di interessi, cioè io ormai presento solo i libri di persone che o scrivono sull'Alto Adige o che per ragioni diverse sono mie amiche. Negli altri casi cerco sempre di dire no, non posso, per cui se io parlo bene di Alessandra non sono credibile per queste ragioni. Però ne parlerò ugualmente bene, perché amo il rischio. Allora, da una parte c'è un saggio, da una parte c'è un romanzo civile, dall'altra c'è un romanzo verità, il poeta Attilio Bertolucci usa questa parola molto bella che a me piace, lui dice io scrivo cose inventate dal vero. Ecco, queste sono cose inventate dal vero, cioè sono vicende reali che diventano romanzo, per cui a diversi livelli di lettura, appunto, si può leggere come un romanzo, anche se poi c'è lo psicoterapeuta che ci porta alla realtà. Per cui anche un saggio tecnico-scientifico, mi viene da dire, con dei rimandi molto chiari, e persino un manuale di istruzioni per l'uso per chi si trova di fronte o dentro una vicenda come quella di cui si parla. Diciamo, il gioco d'azzardo in generale, quando diventa una patologia, quando travolge una famiglia, quando ti fa vivere nella menzogna, uso una parola che compare un paio di volte nella prefazione di Bellettati, perché la menzogna alla fine diventa un abito del protagonista, un abito, dico del protagonista perché quasi sempre, ci dice Alessandra, è un maschio, il malato, e quasi sempre le vittime in realtà sono le persone che vivono accanto a lui. Allora la prima domanda, Alessandra, non può che essere: cos'è? Nel senso, che nasce, tra l'altro, in un trittico, perché oggi c'è la presentazione del libro, poi si va a teatro, poi c'è un convegno, per cui questa è la dimostrazione del fatto che siamo di fronte a una scintilla che accende un piccolo fuoco, anche perché stiamo parlando di una cosa di cui non si parla. È una cosa di cui di solito si parla a gomitate, cioè hai saputo che, hai sentito che, ma raramente anche sul giornale finisce il caso di qualcuno, per diverse ragioni, perché si nasconde fino all'ultimo, e anche quando è l'origine, in questo caso la scintilla negativa, che brucia un matrimonio, che brucia un'esistenza, raramente si riconduce a questo nella narrazione. Allora, cos'è? È un libro? È una sceneggiatura? È qualcosa da portare a teatro o al cinema? È un saggio scientifico? È un manuale perché si potesse trovare in condizioni analoghe? A me piace chiamarla narrativa sociale, perché ha sicuramente, come diceva il dottor Faustini, un nucleo... Come diamo al verso, non funziona il gioco. Cioè, io dichiaro confidenza e poi... Sì, mi dica, professoressa Limetti, la stavo seguendo con attenzione. Va bene. Sì, grazie. Vabbè, insomma, come diceva lui... Ha del romanzo perché è una narrazione, è narrativa, però ho voluto anche mettere dentro dei riferimenti molto precisi, dei riferimenti scientifici molto precisi. Diciamo che questo progetto nasce un paio di anni fa, quando la scrittrice trentina Loretta Failoni mi ha chiesto di scrivere qualche pagina per un libro pubblicato da Curco Genovese a più mani, che doveva essere un libro il cui ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza per il Centro Antiviolenza delle Donne di Trento. Un libro su tante forme di violenza, sì, aggiungo. E io gli ho detto: guarda, ti va bene se io scrivo di una forma particolare di violenza, che è la violenza economica, che poi chiaramente è contaminata alla violenza psicologica. Le ho detto sì, sì, e quello è stato il primo germe di quello che poi è diventato appunto un progetto, perché da quelle 5-8 pagine, che io dico sempre, quelle 5-8 pagine sono esplose, e dal 2021 a oggi sono diventate appunto il libro a perdere, la narrazione. E poi, grazie a un incontro fortunatissimo con il regista e drammaturgo Francesco Niccolini, che è in sala, che tiene un seminario per drammaturghi che si chiama Montagna e Racconta, a Montagna in Trentino, un posto bellissimo dove non c'è nulla, dove si sta lì, si scrive e altro non puoi fare. E ho cominciato a lavorarci su, a lavorare alla stesura della drammaturgia. All'inizio, nella mia idea, era un monologo. Con Francesco, poi confrontandomi con Francesco e poi anche avendo Francesco come coautore di questa drammaturgia, è diventato in realtà una drammaturgia a tre voci. E quindi, insomma, questa è una voce unica, lì ci sono tre voci, in realtà sono la stessa persona, è una declinazione diversa di uno stesso nucleo tematico. È un po' come veramente il teatro è molto più sinestesico, ovviamente. Qui ci facciamo il nostro film immaginifico interiore. Il teatro ha qualcosa che è dato già, però lì si vive la relazione al di fuori, dal vivo, insomma. E qui ognuno, insomma, riesce a meditare nel segreto della propria cameretta. Ma mentre scrivi già pensi a cosa potrebbe diventare? Perché un libro è una specie di figlio, per cui immagino che tu, dandogli vita, abbia già dentro la tua testa un pezzetto di progetto, per cui già ti immagini un domani cosa potrebbe diventare? Ma per me libro e drammaturgia sono stati quasi un parto gemellare, perché in effetti scrivendo per uno, poi aggiustando l'altro, ci sono stati dei travasi da uno all'altro. E il povero Francesco Niccolini se l'è letto tutto in anteprima e è stato brevissimo, perché chiaramente la drammaturgia deve essere una sintesi, però ha scelto delle altre parti che per esempio io non avevo messo dentro nella prima stesura drammaturgica, e poi ha tagliato altro, insomma, quindi per me questo è stato un parto gemellare. Adesso vediamo, mi è stato proposto una certa preparazione in materia, e poi mi è stato proposto anche, in realtà, una sceneggiatrice mi ha proposto di incontrarmi per il cinema, che verrà a vedere lo spettacolo, mi ha proposto di incontrarmi per tradurlo anche cinematograficamente, ma lì io non ci metto becco, perché io non sono una sceneggiatrice, non saprei proprio cosa scrivere. Comunque 16-17 gennaio, 20:30, Teatro Cristallo, così i consigli per gli acquisti sono, come dire, chiari e definiti. E un'altra cosa che di solito non chiedo, ma questa volta mi ha molto colpito, il titolo è minuscolo, cioè come se la storia fosse appunto una storia minuscola che in realtà diventa più grande. C'è in questo a perdere solo la P a qualcosa di maiuscolo, come se la sconfitta avesse una dignità diversa dal titolo, ma tutte le altre lettere sono minuscole. Siamo abituati ai titoli gridati, alle tante maiuscole. Questa scelta, perché è una scelta comunque che colpisce. Mi dava il minuscolo, mi dava più l'idea della dimensione intima, ed è un po' quello che dicevi tu. Queste storie non vengono fuori. Un po' perché il giocatore è un manipolatore bravissimo, un mentitore bravissimo, e riesce a costruire una realtà parallela, doppia, estremamente coerente. Quello che mi è stato spesso detto è: ma com'è possibile, queste donne non si accorgono? È come in altri casi di violenza, cioè entra dentro tutto un meccanismo di manipolazione, di gaslighting, di... per cui è veramente di codipendenza, perché alla fine c'è una dipendenza affettiva che fa da contraltare alla dipendenza dal gioco, per cui è difficilissimo. E dentro questo, siccome appunto queste storie non escono, chiedo scusa, un altro motivo per cui le storie non escono è perché parliamo, diciamo, del che cosa, oltre al giocatore, si parla di denaro, e spesso i giocatori lasciano azzerati le famiglie, veramente azzerati. Ci sono dei buchi enormi, ci sono debiti terrificanti. Le storie che ho raccolto fanno raccapricciare dalla quantità di denaro che è stato buttato via nel vortice della dipendenza. E cosa succede se poi viene esposto il giocatore? E lì il giocatore può perdere il lavoro, può avere delle altre difficoltà di questo tipo, e lì è una famiglia che poi non ha più un reddito, o non ha più una parte di reddito importante, che è necessario per colmare il debito, che è necessario per poter andare avanti e sopravvivere. E quindi il minuscolo mi piace perché rimane tutto un po' intimo, no? E quando è che subentra il senza? Cioè quando è che l'amore diventa l'assenza di amore, il senza amore? Secondo me, e questo non vale solo per una storia come questa, a volte ce la raccontiamo. Cioè a volte spacciamo per amore qualcosa che è già sfilacciato, deteriorato o proprio decomposto. E quindi il dire quando, probabilmente una persona estremamente, ma questo è successo a tutti nelle nostre vite probabilmente, persone estremamente equilibrate, estremamente centrate, estremamente presenti a se stesse, ma in maniera forse anche un po' innaturale, sanno dire no, da qua sento che c'è un disamore. Tra l'altro la cosa curiosa è proprio questa, che uno dei primi sottotitoli pensati per A perdere era Storia di un disamore. Perché è un disamore questa storia? Ma quando è che inizia il disamore? Boh, è una cosa che si logora pian piano. E poi a un certo punto te la racconti perché hai paura, cioè non hai più neanche quello, ma hai paura di dire no, l'amore non c'è più. E se le cose vanno anche un po' male da altri punti di vista, dici cavolo, non ho questo, non ho quello, non ho quello, non c'ho neanche più l'amore. Insomma, trovarsi è spiazzante. Troisi direbbe era un calesse. Paolo Bellettati, da una parte, quando il romanzo diventa un saggio, cioè diventa quasi appunto un manuale, uh-huh. E dall'altra, perché è così difficile parlare di questo tipo di violenza, di questo tipo di disamore, di questo tipo di sconfitta in fondo anche della società, perché è una società che ogni tanto vede un ministro che si alza e dice col gioco finanzieremo il Colosseo che restaureremo, qualche altra volta c'è lo Stato Bisca, per citare un libro che in Italia poi è stato bloccato, guarda caso, però appunto siamo di fronte a una cosa che tutti conosciamo ma di cui non conosciamo la parte oscura che in questo libro emerge e che lei ben descrive. Sì, appunto, il gioco d'azzardo è qualche cosa, cioè un fenomeno così complesso, così ampio e così radicato nella nostra società che lo si può prendere da tantissimi punti di vista diversi, e da ogni punto di vista che lo si prende, che sono alcuni accennati adesso, si apre veramente un mondo. Sì, questo libro è anche un manuale, nel senso che ha sicuramente una valenza scientifica, da psicologo, da psicoterapeuta che si occupa sia di giocatori sia anche di familiari, mi sono ritrovato in tutte queste storie che ho sentito tante volte, perché veramente ritornano a volte come dei mantra delle storie anche in contesti completamente differenti tra di loro, e mi è già capitato di proporlo a un paio di familiari che ho visto, proprio perché penso che potrebbe essere uno strumento importante per quelle persone che ancora sono in una fase in cui si domandano che cosa sta succedendo, che è un po' tutta la prima parte del libro, no? In cui il familiare si rende conto che c'è qualche cosa di strano, ci sono tante cose che non tornano, cominciano a esserci degli ammanchi economici, delle bugie che capisce come tali, ma non riesce ancora a dare un nome a quello che sta accadendo, no? A volte, quando emerge il tema dell'azzardo, di solito sono i familiari i primi che si rivolgono al nostro servizio, e un libro di questo tipo credo che potrebbe essere di grande aiuto. Il perché se ne parla a fatica è proprio perché, un po' come diceva l'autrice prima, sono argomenti comunque privati che tendenzialmente si vuole mantenere all'interno della famiglia. Spesso nei familiari c'è anche un forte senso di vergogna, emerge anche nel libro il come ho fatto a non accorgermi prima di quello che stava succedendo, e c'è anche la vergogna ovviamente verso l'esterno, un po' come diceva, la preoccupazione che se viene fuori chissà che cosa succede, e un po' anche il fatto che comunque è un problema interno alla famiglia e deve rimanere all'interno della famiglia. E in questo senso è estremamente difficile riuscire a parlarne, a volte è anche difficile riuscire ad accedere a un servizio come il nostro, in cui comunque è garantita la privacy, in cui comunque ci sono tante tutele, però il venire a dire sì, mio marito, mia moglie, mio figlio ha un problema di gioco, è difficile, proprio perché c'è sempre comunque un peso di stigma. Ma a proposito di mio marito, mia moglie e mio figlio, è vero che è più maschile il tema? Allora, sicuramente sì. Erano sicuramente non sicuro. Infatti, non era così sicuro, nel senso che all'interno dei servizi, cioè tra le persone che vedo, tendenzialmente il 90% sono uomini. Le ricerche però ci dicono che tra i giocatori patologici il 60% sono uomini. Questo cosa significa? Che c'è sicuramente un'enormità di gioco d'azzardo patologico sommerso, che non accede ai servizi, Tra queste enormità le donne sono ancora più sommerse e ci siamo spesso domandati perché, magari perché si riprende quel discorso di vergogna che dicevo prima, cioè comunque della paura di ammettere di avere un problema, del giudizio, del comunque l'immagine della donna di famiglia che gioca e di un certo tipo, e banalmente anche perché spesso dietro un giocatore c'è una famiglia e una donna, una moglie, una compagna che la prende e lo porta in un servizio. Dietro a una giocatrice non sempre questo c'è. E sulla paura, Alessandra, c'è la paura quando ti rendi conto di avere a che fare con patologie, cioè nelle storie che racconti, nelle testimonianze che hai raccolto, e cosa emerge? Cioè prima, per tornare anche al concetto di amore, per amore si copre tutto, si tende a cercare di capire, di andare oltre, poi c'è un momento in cui tutto si ferma e tutto crolla, e le storie sono individuali insieme collettive perché sono tutte simili, o in realtà i denominatori cambiano? Allora, il non vedere è un denominatore comunissimo, proprio comune. Il non vedere per tanto e tanto tempo. Si va avanti e a un certo punto succede qualcosa, banalmente si arriva proprio a o oltre il baratro, un passo dal baratro. E quindi sì, quello che accomuna tutte queste storie è il fatto di arrivare a un punto in cui proprio non si può non vedere. Non si può non vedere perché è lì. E anche questo però, anche quando vedi, la cosa che ho raccolto, ma veramente dappertutto, anche quando vedi, un po' non ci credi fino in fondo, non ci fai fatica a crederci, anche perché ricordiamoci che una persona non è che abbia il gioco d'azzardo come punto di riferimento mentale, non se ne accorge perché è l'ultima cosa a cui uno va a pensare, quella roba lì. Quindi anche all'inizio, quando, e un po' dici, vabbè, c'è un problema, adesso lo so e adesso si risolverà. E per un po', in effetti, è un'altra cosa comune, è davvero così, perché chiudi un rubinetto e caspita, il rubinetto si è chiuso, qualcosa comincia ad andare meglio. Però dura poco, perché poi arriva tutta l'ondata, la valanga dei debiti, di tutto quello, di tutto il buco e di tutto il devasto che è rimasto dietro. E quindi sì, è un po' questo arrivare proprio quando proprio non c'è più. Ho risposto? Non so se ho risposto. No. Non del tutto, nel senso che no, io mi chiedevo, quando ci mettiamo del prosciutto sugli occhi, no? È una cosa che capita a tutti noi. Posso dirlo, visto che mia moglie non è in sala, per esempio, a casa mia c'è un controllo molto accurato dell'economia, nel senso che se io mi mettessi a giocare o se facessi altro di probabilmente divertente, verrebbe subito fuori. Allora mi chiedo, viviamo in una società che è patriarcale anche in questo, per cui molte mogli non vedono nemmeno i conti, non sanno fino all'ultimo, e magari capita anche il contrario, per tornare a quello che diceva poco fa il terapeuta, per cui c'è la donna che probabilmente riesce a nascondere un piccolo gruzzolo, perché come in una famiglia normale, mi viene da dire, ci si accorge subito, cioè non si riesce a pagare il mutuo del mese dopo, uno dice come mai non abbiamo i soldi, cioè come mai è così difficile, e poi perché è così difficile ammetterlo, perché poi c'è una fase 2 che probabilmente aiuta questo prosciutto sugli occhi. Ma intanto, perché ritorniamo al fatto che il giocatore è un mentitore abilissimo, un professionista che dice ho problemi di lavoro, gli credi, insomma, tutto sommato gli credi. E poi queste cose diventano un buco che non si colma mai. Poi sicuramente c'è, soprattutto in un paio di cose che ho, di testimonianze che ho ascoltato, il fatto, no, ma è mio marito che si occupa di tutto. Parlando in una scuola, però, io dicevo, senza andare tanto in là, io mi ricordo i miei nonni paterni. Mio nonno passava, io non sono giovanissima, però non ho 140 anni. Non di buttare giù, via. Ecco. Mio nonno passava a mia nonna la paghetta settimanale, e se lei doveva comprare un paio di calze perché si erano smagliate le calze, gli doveva chiedere i soldi in più per comprare le calze. Cioè, tanto, e questo l'ho sentito tanto, una volta facendo questo ragionamento in una scuola, parlando proprio di questo tema, è ancora in tante famiglie dei ragazzi che avevo davanti, mi hanno detto, ma sì, è così, cioè, mio padre non passa il, diciamo, passa dei soldi a mia madre laddove la madre non lavora. Altre volte c'è una messa in comune dei fondi, dei soldi, che poi viene saccheggiata anche in modo, diciamo, nascosto. Facciamo il fondo per l'università dei figli. Il fondo per l'università dei figli non è una cosa che uno va a vedere tutti i giorni. Non c'è come una cosa del genere da poter essere saccheggiata. Poi la questione del prosciutto sugli occhi è assolutamente vera e condivisa, però ci sono anche queste forme. Adesso io avevo segnato nell'ultima formazione che avevo fatto sull'azzardo a Stefania Molinaro, la dottoressa Molinaro del CNR, ci aveva dato i dati del gioco, appunto, che del 2022. Ecco, è vero, appunto, diceva appunto il dottor Bellettati, il 90% che arriva sono uomini, diciamo il 60% sono donne, nel 2022 la percentuale era più o meno attestata al 70% uomini dei giocatori gravi e medio gravi. E quello che lei, poi appunto io qui mi affido agli specialisti, quello che lei diceva, certi devasti probabilmente enormi probabilmente li fanno gli uomini, ma anche per una ragione, appunto, tu dicevi patriarcato, una ragione culturale. Cioè molto spesso ancora oggi chi ha possibilità di spesa grossa e di chi ha il cordone della borsa spesso sono gli uomini. Per cui io che dicevo la paghetta da mia moglie, stasera dovrò fare un discorso lungo a casa e, no, deve faccia il Bellettati, no è come... No, se posso aggiungere, è che in realtà, come emerge anche dal libro, lo tenga vicino. Sì, si costruiscono e queste dinamiche familiari nel corso di anni. E quindi il fatto che ci sia poi uno dei due che è quello che gestisce i soldi, spesso quando arrivano poi da me o nei servizi, e la domanda, cioè, perché è sempre stato così, perché è iniziato a essere così e non ci siamo mai posti il problema che potesse essere qualcosa di diverso. C'è qualcosa che si costruisce lentamente e che ovviamente il giocatore è abile pian pianino a prendersi su di sé anche l'onere delle spese. Questo nel libro emerge. Non preoccuparti di niente, ci penso io. La parte economica mi faccio carico io, risultando quasi anche come un favore che faccio alla famiglia. In realtà il controllo completo della gestione economica è poi un obiettivo che lo giocatore deve raggiungere per poter avere a disposizione i soldi. Ma il vostro mestiere è simile a quello di Nicolini? Ci avete a che fare solo con attori? Mi viene da chiedere, adesso io provoco ovviamente, cioè sono tutti così bravi ad abitare la menzogna? I giocatori sono bravi, sono veramente bravi e a volte c'è anche un po' di ammirazione in questo, se non fosse che in realtà le prime persone a cui mentono sono loro stessi. Diciamo che quando arrivano da noi, se arrivano fino lì, vuol dire che un po' di percorso di consapevolezza lo hanno fatto. Spesso per un giocatore, dopo anni di menzogne, il fatto di riuscire a dire la verità è catartico, è liberatorio. Io ho in mente una situazione in particolare in cui era un giocatore che era stato trascinato lì dalla moglie e per qualche minuto ha provato a dire no, ma cosa ci faccio qua, ma cosa volete da me, ma cosa è. Poi a un certo punto si vede proprio che c'è una diga che si è incrinata, è scoppiato a piangere e finalmente lì è venuto fuori tutto quello che non era venuto fuori in anni. E questo sicuramente poi dopo lo racconta in termini proprio di liberazione. Finalmente mi sono tolto il peso delle menzogne, del dover ogni sera tornare con il dover inventarmi come giustificare i soldi persi o dov'ero o cosa ho fatto oggi. A proposito di passaggi catartici, Alessandra, ci sono istruzioni anche per le vie d'uscita, perché le vie d'uscita, per quanto dolorose e faticose, ci sono. Questo è veramente la mia speranza per questo libro, cioè che faccia suonare dei campanelli d'allarme, prima rispetto a tutte le voci che ho, le vite delle persone di cui ho raccolto la voce. Proprio perché è un processo lungo, anche perché nessuno nasce fortissimo giocatore, è una cosa che si costruisce nel tempo e poi diventa sempre un erodere. Io spero che questo faccia suonare qualche campanello di allarme e anche il pensiero, appunto, si fa fatica, ma se ne può venire fuori intanto prendendo consapevolezza della codipendenza affettiva che magari la persona, il partner ha nei confronti del giocatore, e quindi dice no, però. E questa è stata una delle prime cose che quando mi sono confrontata col dottor Bellettati è venuto fuori. Attenzione che anche spesso il partner è un giocatore, solo che si gioca cose più preziose, cioè si gioca emozioni, amore, attenzioni, e tutte le volte che arriva qualche cosa rigioca tutto, quindi rigioca tutta la speranza che ha. Magari le cose vanno un po' meglio, bam, ci ributto dentro tutto il mio concentrato di speranza, di aspettativa. Non sono storie facili, però io penso che intanto non tenere tutto sotto un sarcofago funzioni, cioè si diceva si tiene spesso all'interno della famiglia, ecco. Da quello che ho capito, tutto quello che viene tenuto assolutamente a tenuta stagna fa marcire dentro, perché è importante che emerga con qualcuno, perché molto spesso c'è anche una questione di abbandono sociale enorme. I familiari del giocatore, quando magari c'è una separazione, quando esce fuori il problema, e appunto magari c'è una separazione, ma in un sacco di casi abbandonano poi la famiglia, tra virgolette, derubata, truffata o messa appiattita dal demone del gioco, del loro stesso familiare, diciamo. E non è facile anche perché per il centro ENS segue anche le vittime collaterali, quindi i familiari dei giocatori. Però anche andando a tutti i vari convegni che ho frequentato negli ultimi anni, ho visto che i servizi per le vittime collaterali familiari sono pochissimi, quindi questa rinascita deve essere intanto un po' anche una rinascita personale, dire ok, io intanto comincio a andare oltre la vergogna, a parlarne a qualcuno, cercare di mettere distanza anche emotiva e quindi di rompere la dipendenza psicologica nei confronti del partner giocatore, e poi se si ha la fortuna di avere dei servizi pubblici di appoggio. Questo è fondamentale, altrimenti non se ne esce. Ma il giocatore o la giocatrice rischiano poi di essere, come dire, presi da compassione rispetto alla società che sta loro attorno, cioè, come dire, diventano vittime due volte, ma vittime anche accudite, perché poverino non è stato capito, poverina non è stata capita dalla famiglia. C'è anche questo rischio che, non parlandone, la vittima poi diventi in qualche modo quello da adottare, da coccolare, da accudire. Il giocatore, dice. Il giocatore, la giocatrice. Il giocatore, la giocatrice. Abbiamo detto che, insomma, c'è... Sì, io mi sono concentrata appunto sui familiari, ho incontrato storie, sono tutte storie di donne. Sì, anche perché poi, ritorniamo alla menzogna. Quando un pezzo di menzogna esce, cioè, gioco... Però poi c'è anche un'abitudine, secondo me, io non sono psicologa, però comunque secondo me c'è anche, da quello che ho sentito, c'è anche un'abitudine che poi uno spende in altro modo, non più sono andato a fare la spesa ed è andato a giocare, ma in altro modo. E c'è anche questa tendenza al vittimismo, spesso, per cui il giocatore spesso riesce a fare la vittima, e caspita, non ho soldi, no? per farsi dare prestiti per giocare. E questa roba qui un pochino se la porta dietro, quindi sì. E la società come legge? Sì, anche perché appunto spesso il giocatore è un bravissimo, ha una facciata bellissima all'esterno, perché l'ha affinata in anni e anni di gioco nascosto. Sì, il fatto di dire poverino c'è, sicuramente è una patologia, ricordiamoci, il DSM-5 ci ricorda che è una dipendenza senza sostanza, l'azzardo. Quindi c'è bisogno di cura, ma attenzione, perché dietro queste storie di gioco il giocatore va curato, ma c'è un contorno di vite maciullate dei familiari del giocatore. E appunto io ho raccontato questa storia dove pian piano si vede dall'inizio a quello che succede in mezzo, a tutto, a quello che sono i segnali strani, a che cosa succede una volta che viene fuori la grande bolla, che scoppia la bolla, si dice sì, c'è il gioco. Vabbè, allora adesso risolviamo le cose. Eh no, ci sono purtroppo anche il dopo, è la parte più difficile, forse, perché è difficile da elaborare. Benedetta, si parla anche con i figli, cioè perché adesso abbiamo parlato molto di partner, della persona più vicina al giocatore o alla giocatrice, però poi ci sono queste vittime, come oggi capita anche nelle guerre, no? Le vittime non previste dal tipo di guerra. Anche questa è una guerra che si combatte di giorno in giorno in molte case. E queste vittime, cioè i figli, vanno informati, vanno coinvolti, vanno protetti? Questa è una domanda difficile, nel senso che i figli sicuramente, cioè, vanno protetti e andrebbero protetti all'interno ovviamente della famiglia, e questo non sempre è possibile nelle famiglie dove c'è un problema di dipendenza in generale, anzi a volte vengono coinvolti troppo, mi viene da dire, in alcuni casi. Lo scrivevo un po' anche nella postfazione, spesso si creano delle alleanze all'interno della famiglia, quindi c'è il familiare che gioca, che magari cerca di coprire alcuni debiti di cui il figlio è venuto a conoscenza, facendosi prestare delle cose, ma mi raccomando non dirle dall'altra parte. Il familiare invece del giocatore che dice vai a chiamare papà in sala giochi perché con te non si arrabbia, cioè quindi sono direttamente coinvolti nella quotidianità patologica di una famiglia di questo tipo. Ed è inevitabile che questo nel tempo lascia dei segni anche nei figli. E questo è un po' trasversale a tutte le forme di dipendenza. L'aspetto che emerge con più frequenza è quello dell'ansia, cioè del non sapere mai che giorno è oggi. Ovvero torno a casa e non so che situazione mi troverò. Mi trovo mamma e papà che vanno d'accordo e tutto bene, oppure mi trovo urli e strepiti e litigi perché sono finiti i soldi, perché per questi episodi che vengono ben descritti. E quindi i figli sono i primi a dover essere tutelati. Rispetto all'informarli, non informarli, ovviamente questo dipende molto dall'età dei figli. Secondo me, e un po' anche questo viene accennato all'interno del libro, anche però dei bambini relativamente piccoli sono, come sappiamo, delle spugne che sono perfettamente in grado di capire che c'è nell'aria qualcosa che non funziona. E a volte, senza la necessità di spiegare esattamente di che cosa si tratta, ma quantomeno confermare che le loro paure, che le loro idee, che quello che stanno vedendo esiste veramente e non è solamente frutto della loro fantasia, perché poi il rischio, soprattutto nei bambini più piccoli, è che si crea quasi una forma di autocolpevolizzazione, cioè io... siccome non so darmi una spiegazione di quello che sta succedendo, probabilmente dipende da me. E quindi spiegare, quando sono un po' più grandi, nel dettaglio che cosa sta succedendo. Ma in questo, ed emerge bene nel libro, in una fase successiva in cui il problema è esploso, può diventare anche un'occasione per il giocatore di mettere in guardia i propri figli rispetto al rischio, e questo vale anche per tutte le altre forme di dipendenza, al rischio di questo tipo di problemi, da dire: io ci sono cascato, ci sono passato, può succedere, ne sono venuto fuori in questa maniera. E sicuramente ha un valore molto di più raccontato da chi c'è passato, piuttosto invece che da uno psicologo, insomma. Alessandra, mentre il dottor Bertati diceva vai a prendere papà o la mamma, fallo tornare a casa, forse con te non si arrabbia, pensavo che nel libro in realtà emerge anche che non c'è più un luogo specifico dove andare a prendere papà o la mamma, cioè il gioco d'azzardo oggi è rete, è luoghi che apparentemente sono oscurati nelle vetrine ma che in realtà abbiamo davanti agli occhi, e tante cose insieme, mentre un tempo probabilmente era la bisca del paese che tutti conoscevano, comunque quel baraccio dove si andava e dove si sapeva che si trovava il nonno, lo zio, qualche parente, e lo si viveva quasi come una cosa simpatica perché non diventava una patologia. Allora, c'è da fare un grande distinguo. Non è tantissimo che c'è stata questa esplosione del gioco d'azzardo legalizzato. È chiaro, i dati ci dicono che il gioco si divide in online e on-site, cioè l'online, sappiamo tutti, attraverso appunto computer, web, telefoni, noi abbiamo una sala giochi potenziale nel nostro telefono. L'on-site sono le sale slot, le sale gioco. Io vi ricordo che nel 2009, terremoto dell'Aquila, si decise di aumentare, di moltiplicare le VLT. Le VLT sono quelle slot machine che però non vanno a gettone, a moneta, ma vanno, si mangiano le banconote. Quindi la slot machine puoi giocare solo monete o gettoni, la vincita massima è 100 euro. VLT puoi giocare banconote, quando c'erano ancora anche i 500 euro, e la vincita massima è 500.000 euro. Si decise di finanziare la ricostruzione dell'Aquila con questa roba qua. Si sono moltiplicate, poi nel 2011 c'erano, non so quanti, c'era mezzo milione di macchinette in tutta Italia, mi pare, di VLT. Capiamo bene che le VLT possono essere, mentre le slot machine sono quelle che possiamo trovare al bar, al tabacchino, le VLT necessariamente devono essere in una sala slot. Come funziona il sistema in Italia? Il sistema in Italia, allora, sappiamo che lo Stato ha il monopolio sul gioco d'azzardo, però il sistema italiano viaggia per concessionari, cioè lo Stato ha dei concessionari che sono degli intermediari tra coloro che hanno la sala slot e lo Stato. La raccolta, che sono tutti i soldi che vengono giocati, dalla raccolta un 20% viene tolto ed è diviso così: 10% allo Stato, 10% al concessionario. Ora, l'idea, no, il fatto di dire al figlio vai a prendere papà la sala slot, perché queste sale slot sono dei posti che assolutamente, veramente segreganti, perché non ci sono riferimenti temporali, per esempio, è tutto molto buio, non si vede che ora è, è difficile avere i riferimenti temporali, spaziali, ci si perde nelle sale slot. La bisca del paese magari era un minimo di gioco illegale dei nonni che ci giocavano le 10.000 lire, oppure c'era davvero il gioco illegale nascosto, no? Però il gioco legale intanto è legale. Cioè, ma pensate solo delle volte che andiamo in autostrada, a quanti di noi la signora, quando andiamo a comprare la Coca-Cola o il caffè, dice vuole un grattevinci? A tutti. Io mi ricordo con i miei figli, una volta siamo andati in autogrill e una cassiera ha detto chiedi alla mamma se vuole un grattevinci. È diventato super super diffuso ed è difficilissimo. La questione è, nei casi in cui dici vai a prendere papà al sala slot, è un tipo di storia diversa da quella che racconto io, perché io racconto una storia in cui quando emerge il problema, poi lì c'è veramente una frattura enorme. Cioè la donna in questione, la mia protagonista, non vive più col giocatore, perché c'è allontanamento, il giocatore stesso si vuole allontanare, non torna più a casa, nonostante lei voglia, tenti di rimettere a posto, di ricostruire, di rimettere a posto le cose, e quindi chi lo sa, cioè non c'è più un controllo del fatto gioca ancora, non gioca più. Mi sembra, questa cosa qui mi ha sempre fatto impressione, me l'ha già detto un'altra volta il dottor Bertatti, mi ha sempre fatto impressione, cioè mandare un figlio a dire vai a vedere. È uscito anche un libro l'anno scorso, un libro molto bello sull'azzardo, non ci sono tantissime narrative sull'azzardo, però credo la mia forse è l'unica che credo da parte con la voce delle vittime collaterali, quindi del partner, credo sia l'unica, però è uscito un bel libro che si chiama Azzardo, di Alessandra, non mi ricordo, di questa autrice, per Einaudi, dove parla proprio di una giocatrice, cioè la voce è del giocatore, senza la retorica un po' romantico-decadente dostoevskiana, ed è questa giornalista, che credo sia stata una giocatrice, credo sia un'autobiografia addirittura quella lì, che dove dice io ho iniziato a giocare perché andavo a pigliare mio padre nelle sale slot, e lui mi dice vieni qua, siediti vicino a me, guarda, fai tu, schiaccia tu questo bottoncino oggi, tira tu questa levetta oggi. E alla fine, io trovo la cosa che ho trovato agghiacciante, questa intera famiglia faceva le vacanze in luoghi, in hotel, dove c'era il casinò, in Slovenia, eccetera, e le loro vacanze erano quello, andare a giocare, che è terrificante. Prego, certo, deve aggiungere. Quando si parla di questi discorsi mi si invita a nozze, aggiungo soltanto, uno era già stato detto, nel libro ci si focalizza molto sul discorso delle slot, delle videolottery, che è un po', come hai detto, sono la droga pesante del gioco d'azzardo, ma il gioco d'azzardo è un mondo vastissimo in cui online è un site, c'è di tutto, e ogni forma di azzardo può potenzialmente creare dipendenza, dai gratta e vinci alle scommesse sportive, all'otto, al superenalotto, scommesse di vario tipo, eccetera. Quindi, altro discorso che volevo aggiungere, che un po' è stato accennato rispetto ai figli, è vero anche che la letteratura ci dice che i figli di giocatori hanno più probabilità di sviluppare problematiche legate al gioco, proprio per quello che diceva prima l'autrice, cioè che sono stati probabilmente per buona parte della loro vita sottoposti a una normalizzazione del gioco. E poi ecco un'altra cosa che volevo aggiungere, è che sì, è vero, con col terremoto dell'Aquila sono state aumentate le videolottery ed è stata anche introdotta la terza giocata nel lotto. Quando era? L'anno scorso, due anni fa, con il terremoto in Emilia, è stata introdotta la quarta giocata settimanale del lotto, che doveva esaurirsi il 31 dicembre del 2023, ma guarda caso è stata prorogata a tempo indeterminato. Quindi passano gli anni, ma che lo Stato lucra sull'azzardo ha abbassato la tassazione, per cui becca anche me, almeno un tempo incassava un po' di più e la sistemava quello, davvero l'Emilia. Sì, quello in realtà, poi allora che dove siano finiti i soldi presi dal gioco d'azzardo non lo so, il problema è anche che appunto come diceva adesso, con i vecchi giochi tra virgolette la tassazione era abbastanza alta, con tutto quello che è la parte online soprattutto ormai la tassazione è intorno all'1%, mentre ad esempio con le vecchie slot machine a moneta era intorno al 25-26%. Vi dirò un aneddoto personale, nel senso che come giornale noi abbiamo fatto una bella campagna contro il gratta e vinci, contro il gioco d'azzardo, ho scoperto nell'ordine di essere l'unico giornalista nel pianeta che ha fatto questa campagna, e poi ho scoperto anche perché hanno iniziato a chiamarmi gli edicolanti chiedendomi se avrei pagato loro io l'affitto, nel senso che molti edicolanti vendono gratta e vinci e hanno un paio di slot all'interno, se ci avete fatto caso. Per cui sono riuscito in un capolavoro senza eguali, cioè mettermi contro quelli che vendono il mio giornale. Però al di là delle battute, quando ti dicono mi paga lei l'affitto, rifletti, no? Perché poi uno dice ma io con le slot ci pago l'affitto, e allora è lo Stato bisca che deve intervenire, c'è qualcosa che non funziona. Un'ultima cosa che chiedo ad Alessandra prima di aprire non solo idealmente, ma a tutti voi se avete voglia di fare delle domande. Il microfono è questa, da ricatto a riscatto. C'è anche un po' di ottimismo, però il riscatto è difficile. Cioè immaginare che uno smetta di giocare, che torni in famiglia, o che una smetta di giocare, che torni in famiglia, anche leggendo sembra una pagina di Tommaso Moro. Sì, io penso che il riscatto non sia necessariamente il rientro in famiglia del giocatore, no? Ma il riscatto deve essere intanto il ritrovare la dignità e il cancellare quel senso di colpa che uno si porta sul gobbone perché non ha visto, soprattutto nel caso, in caso ci siano i figli. Non ho visto, ho fatto fare una infanzia miseranda ai miei figli, oppure non lo so, tante cose, ma comunque avrei dovuto vedere prima, ma anche per me, per la mia autotutela, insomma, intanto il togliere il senso di colpa è già riscatto. Il ricatto è difficile da buttare via definitivamente, e ce ne sono tanti altri dopo. Io non so, divorziati, non ti posso dare gli alimenti perché comunque devo pagare i miei debiti. Sì, Ciccio, beh, però li hai fatti tu, quindi insomma cerchiamo di trovare un equilibrio su questa cosa, perché spesso ci sono anche storie di fuga. Vabbè, il giocatore dice ok, non gioco più, allora cancelliamo il passato, adesso mi ricomincio un'altra vita. Ma alle spalle c'hai veramente i tappeti di pelle di tutti i famigli, tutti quelli che hai massacrato. Spogliato. Esatto. Ma e su questo appunto l'aiuto che arriva dalla terapia però può essere utile, fondamentale. Cioè può anche rimettere insieme qualche coccio? Perché uno riparte da se stesso, secondo me, in tutti i casi che ho sentito, tranne uno, devo dire, mi ha fatto, proprio recentissimo in realtà, questa era una delle più recenti. Questa donna non aveva figli, non era neanche suo marito, era suo fidanzato, però lei anche a distanza di anni ha detto ma io me lo riprenderei domani, cioè tanto adesso si sta curando. Ma quello che c'è dietro, e questa penso che siano ritornati a vivere insieme per un po', ma poi sono innescati altri processi di menzogna, di bugia, di ricatti di altro tipo. E perché forse non in tutti c'è una presa di responsabilità non solo economica, ma morale. Io non posso andare da Giovanna, che è la mia collega amica qua davanti, e che il 16 e il 17 che sarà 16, il teatro 17, cristallo e di arrivare a casa tua, a casa sua, e sequestrarla in casa, rubarle tutti i vestiti e trattarla pure male, e poi pretendere che sia ancora la mia migliore amica dopodomani. Cioè, calma, c'è un processo di guarigione, c'è un processo di ricostruzione. Non sempre c'è. In alcuni casi l'ho sentito, anche delle belle amicizie rinate e proprio una bella uscita. In altri molti meno. Però il riscatto personale sicuramente è possibile. I centri di aiuto sono fondamentali, e poi anche un po' cercare, secondo me, di capire che non si è visto, va bene, però insomma dall'altra parte c'era qualcuno di veramente molto bravo a non far vedere. Ultimissima cosa, dopo aver chiuso il libro e aver fatto altri incontri e essere venuto a conoscenza di altre storie, ti è venuta la tentazione di aggiungere un capitolo o addirittura di proseguire nel racconto con magari il numero 2? Bella domanda. Allora, mentre io i pensieri più, diciamo, non so se bislacchi o geniali li faccio quando salgo, io abito a Renon, quindi quando salgo in macchina, soprattutto la sera, magari dopo le prove da Bolzano, salgo in macchina e penso. E io ho pensato che mi piacerebbe tantissimo adesso cimentarmi, magari una cosa breve, dall'altra parte, cioè scrivere dalla parte del giocatore. Diventi dostoieschiana anche tu, cioè prima ti lamentavi e adesso hai... No, vabbè, non con un'aura, anche un po' questa qua un po' decadente e affascinante. No, però insomma, però mi piacerebbe scrivere dalla parte del giocatore. La primissimissima idea, vi devo confessare, che ho avuto era di scrivere a due voci. E poi ho pensato, no, perché a due voci? Cerchiamo di dare polpa a questa cosa qua. Allora, grazie Alessandra Limetti, grazie Paolo Bellettati. Chiedo grazie. A voi se avete voglia. Io di prima. Chiedere, prima devi ancora fare dei consigli per gli acquisti. Sì, volevo chiedere cortesemente se Francesco Niccolini aveva voglia di dire due parole su questa. Insomma, sono due anni che sopporta questo mio lavoro. Che sorpresa, perché non ho capito, c'è una cosa a teatro, non se n'era parlato. Il 16 e il 17. Su questo, prendete poi il volantino, ci teniamo moltissimo. No, ci facciamo però anche raccontare da Francesco Niccolini. Quando un libro, quando una storia diventa qualcosa di diverso, cioè prende un'altra vita, perché anche questa è la parte molto interessante. Buonasera. Cambiano tante cose, cambiano tantissime cose, a partire dal fatto che in teatro abbiamo a disposizione 1:10, 1:15 al massimo, per cui, come dire, pochissimi... Io devo riuscire a usare pochissime parole rispetto a tutte le parole di un romanzo, e tra l'altro non posso neanche usare le parole del romanzo, perché quando scriviamo abbiamo una ricerca letteraria di un certo tipo. L'oralità, la voce invece nell'oralità, soprattutto in una storia così intima e così diretta, non può seguire le regole della letteratura, della bella costruzione linguistica, ma deve trovare una verità orale. Per cui bisogna cambiare tante cose. Personalmente, in questo caso in particolare, nel rispetto dell'originale, perché ho trovato che il libro in sé era ricchissimo. Per cui sono state in realtà molto poche le cose che ho aggiunto. Ho proposto ad Alessandra di cambiare, ma piccolissime cose, cioè da maggio a marzo il primo incontro, ma perché volevo che lui avesse una giacca che a lei piacesse molto, perché sentivo il bisogno che la storia partisse con più innamoramento. E che ci fosse una trappola teatrale, anche perché sono convinto che questo può essere uno spettacolo che può interessare a qualunque tipo di pubblico, che non debba stare nella sezione soltanto per le associazioni che si occupano di questa cosa, ma perché penso che sia una grande storia, molto potente, molto tragica, molto forte, estremamente umana, e che riguarda tutti, perché chiunque, penso, all'improvviso può trovarsi in un incontro totalmente inatteso e doloroso con un problema di questo tipo, o anche di un'altra dipendenza, perché alla fine non cambia molto. Per cui la trappola teatrale parte con delle regole un po' diverse. All'inizio abbiamo cercato di fare in modo che non si capisse che il problema era quello. Per cui, e infatti il sottotitolo è proprio molto legato all'amore, e anche quello che poi non abbiamo, anche quello che non abbiamo usato, il disamore. Perché per me, prima di tutto, questa è una grande storia d'amore, che poi diventa un disamore, ma è prima una grande storia d'amore. Per cui diciamo, ecco, che è aumentata l'importanza dell'innamoramento, anche la felicità, perché prima del disamore, prima del dolore, ci deve essere anche un momento di grande felicità. Per cui diciamo che l'unica cosa un po' diversa è che nello spettacolo ci sarà anche la felicità di prima. E la scelta delle tre voci? Questa, devo dire, mi piacerebbe dire che è un'idea mia, ma non è vero. È stata una grande idea di Walter Zambaldi, il direttore del Teatro Stabile di Bolzano, che insieme al Teatro Cristallo produce lo spettacolo, che quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa ha detto: ma non un monologo, basta monologhi, in Italia abbiamo fin troppi monologhi, io voglio uno spettacolo con tre attrici. Ed è stata una grande idea, perché avere a disposizione Alessandra, Giovanna, Marta, mi ha permesso di dare voce alle tre anime, a tre anime diverse che sono dentro questa stessa figura femminile, e permette un incalzare drammatico di alcune scene che una voce unica non può ottenere. Per cui io devo dire, sono felicissimo che mi sia stato imposto di lavorare con tre attrici, e tra l'altro posso dirlo tranquillamente, tre attrici incredibilmente brave, serie, professioniste. Abbiamo iniziato il primo giorno di prove, sapevano già tutto a memoria e questo ci ha permesso di lavorare benissimo. E con tre voci così l'intensità emotiva dello spettacolo è altissima. È chiaro, rispetto al romanzo, ecco, io ho molti limiti, come dicevo, soprattutto che posso usare pochissime parole. Rispetto al romanzo ho un grande vantaggio: i corpi e le voci di tre donne, e questa, più le luci, più le musiche, ma prima di tutto i corpi e le voci di queste tre donne eccellenti attrici di grande umanità. Noi passiamo vari momenti di emozione durante le prove, a fine prove ce lo diciamo. Questo, vabbè, è merito del lavoro di Alessandra e del suo romanzo. Però quei corpi, quelle voci sul palcoscenico aggiungono, rispetto al romanzo scritto, ovviamente qualche cosa di carnalmente ed emotivamente strepitoso. Se qualcuno non era già convinto per il 16-17, adesso sta già prenotando online. Ma sì, venite, ve lo consiglio di cuore, ve lo consiglio perché prima di tutto è solo 1 ora e 15, ma avrete delle grandi sorprese. Noi siamo a 1 ora e 16, per cui dobbiamo assolutamente fermarci. Grazie, grazie, perché è stato anche molto utile capire poi come la trasposizione, no? Come richieda, come dice Chekhov, togliere, togliere, togliere, no? Perché è vero, c'è molto da togliere, poi lasciare l'essenza delle cose. Avete domande, suggestioni prima che ci chiudano in biblioteca? Perché so che anche qui c'è una questione di orari. Uno più intelligente, abbiamo con noi l'esperto? No, nel senso che allora a livello di tanto sarebbe da definire che cosa si intende per intelligenza, diciamo che a livello grado di istruzione, no, allora il giocatore medio ha un grado di istruzione medio, tendenzialmente appunto il giocatore standard è maschio, libero professionista, con un livello di istruzione media superiore. Per esperienza ho visto di tutto, quindi ecco, il rispetto all'istruzione non è una garanzia di non sviluppare un problema di gioco, cioè... Ma anche rispetto al partner, perché forse, no, aggiungo questo dettaglio, cioè la differenza in casa fra chi gioca e chi subisce c'è o... No, non mi verrebbe da definirlo legato a un discorso di istruzione. Chiarissimo, grazie. Altre domande, altre curiosità? Elio? Ma una velocissima, buonasera. Innanzitutto grazie ad Alessandra, ci regala questo bellissimo, bellissimo scritto. Una domanda professionista, se mi permette. Io nei primi anni, prima di portare il centro di direzione del ruolo del turismo, che era una tendenza, che ci conosciamo, la domanda che mi viene oggi, ho sempre avuto la mia testa, no? Questo tipo di dipendenza la consideriamo necessariamente malattia o può essere un sintomo, vedendo quello che succede poi nella famiglia? Sì, la domanda è molto interessante e se vogliamo rispondere bene ci passiamo tutta la sera, ma non è il caso. E sì, diciamo che tendenzialmente tutte le forme di dipendenza sono un sintomo di un malessere più profondo, o meglio, stringendo molto, sono un sistema sbagliato e maladattivo che una persona ha sviluppato per cercare di risolvere, affrontare, evitare delle proprie problematiche personali o dei momenti difficili della propria vita. Fondamentalmente, restando i giocatori, si dividono in tre categorie, ma quelli principalmente sono in due, cioè giocatori che potremmo essere chiunque di noi che ha un certo, che hanno giocato magari da sempre o per tanto tempo a un livello non problematico, poi vanno incontro a un evento di vita che mette in crisi, che può essere banalmente una separazione, un lutto, un pensionamento, qualcosa, e vedono nel gioco un modo per affrontare questa situazione, oppure persone che avevano già una psicopatologia, ed è la situazione che viene un po' descritta anche nel libro, preesistente al gioco, e che il gioco diventa appunto un sintomo anche di questa psicopatologia. Motivo per cui, un po' come è stato accennato prima, in queste situazioni non è sufficiente togliere il gioco e continuare a fare esattamente la stessa vita di prima. Bisogna rivedere un po' tutto quello che erano il proprio modo di vivere, di affrontare le relazioni, i problemi e tutto. E oltre alla psicopatologia o diciamo un evento traumatico o una propensione psicologica al gioco, come per le altre dipendenze c'è anche una propensione un po' genetica, cioè nel senso che uno comunque è portato geneticamente ad attaccarsi al fumo, alla droga, all'alcol, insomma, e al gioco quindi? Sì, anche se ovviamente non esiste un gene legato al gioco d'azzardo, esiste una predisposizione genetica a sviluppare delle dipendenze. In realtà anche questo è un po' più complesso, nel senso che c'è una predisposizione genetica ad avere una minore o maggiore tolleranza alla frustrazione e quindi di conseguenza a volte poi la dipendenza o il aggrapparsi a qualche cosa di esterno, che sia una sostanza o un comportamento, diventa, come dicevamo, un modo per riuscire a gestire la frustrazione o una serie di emozioni negative che altrimenti non si riuscirebbe a fare. Però il discorso della genetica è ancora, cioè, quanto incide è ancora molto in fase di studio. Anche perché si è visto che determinati geni si attivano o non attivano a seconda del contesto in cui una persona vive. Quindi anche il patrimonio genetico in realtà non definisce tutto. Io posso avere un gene di un certo tipo che non si attiva all'interno di un contesto familiare di un certo tipo. Grazie. Ma se non ci sono altre domande, ci vediamo a teatro il 16 o il 17, se non ho capito male. Alle 20:30, al Cristallo. Grazie.